Femmina ubriaca, narcisista ed incapace. Toglimi il pensiero di capirti e interpretarti. Sei tu che non distingui ciò che è bene e ciò che piace. Mascheri anche la tua vanità. Donna che vaneggia tra ingordigia ed ignoranza, alla continua ricerca di sé. Dimmi quanto è vuota la tua vita in questa stanza, quando non sei qui con me. Mammifero che sforna i suoi simili, prolungando la longevità di una razza umana senza regole, puttana che si prende che mai non ti dà. Maschio dominante, spesso dal cervello assente, resta in fondo nella profondità. Adesso sfrutta pure la tua parte di mondo, intanto muore l'altra metà. Allora libera questa terra dall'umanità. Prende che mai non ti dà. Allora libera questa terra dall'umanità. Libera che si prende che mai non ti dà. Sei tu che porti in dono il seme della vita. Guardati da quando sei qui. Adesso fuggi pure, ma non c'è via d'uscita, e questo è il futuro per chi nell'evoluzione ha visto tracce di ragione, non vedendosi ormai alla follia. Adesso sfrutta pure la tua parte di mondo, quella parte di mondo anche mia. Allora libera questa terra dall'umanità. Libera che si prende che mai non ti dà. Allora questa terra dall'umanità, libera, che si prende che mai non ti dà. Se di questa terra che ti preoccuperai, uomini e donne, il male che sei, verri presto distruggerei. Little, little vibrazioni, tu motherfucker, piangi terra from 1, 2, 3, 4. Anni che ti portano a morire for me, che non vivo senza de te. Little, little vibrazioni, tu motherfucker, piangi terra from 1, 2, 3, 4. Anni che ti portano a morire for me, che non vivo senza de te. Quale sia la soluzione non so, di un dilemma mondiale di questa dimensione, per decidere se è giusto o se no. Questo mondo resta in mano a milioni di animali, che saccheggiano e danneggiano risorse vitali, al limite più estremo della sua legalità, che permette tutelando questa finta civiltà. Questo è il punto in cui mi prendo la vergogna tra le dita. Veramente l'uomo è in grado di distruggere il pianeta? I don't know, ma però forse è meglio non rischiare. Come dice la canzone, ricomincio a sterminare.